il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. Negli Stati Uniti il 64% dei consumatori di vino oggi è donna e l'80% del vino venduto nel supermercato è acquistato da persone di sesso femminile. In Italia non sarà così, ma il vino è sempre più apprezzato anche dal pubblico femminile e anche molte aziende del vino oggi sono condotte da donne. Abbiamo avuto occasione di sentire le opinioni di alcune di loro nel corso della manifestazione Vino e Donna svoltasi domenica 6 marzo sui Colli Euganei. Ve le riproponiamo in questa puntata del Quadrifoglio. Cominciamo con Alessandra Piovene Portogodi, che si occupa dell'omonima cantina di famiglia sui Colli Iberici. A lei abbiamo chiesto perché questa crescente presenza femminile nel mondo del vino e se ha senso parlare di vini pensati per le donne. Io credo che le donne possano dare un valore aggiunto nel settore del vino, prima di tutto perché lo bevono sempre di più e poi perché il vino è comunque un prodotto che è adatto più al sesso femminile che al sesso maschile, perché le donne sono un po' più attente, un po' più precise e anche più schiette, quindi io credo che la presenza femminile vada bene sia in vigna che dal punto di vista commerciale. Le donne bevono sempre di più il vino, però voi non pensate ad un vino per le donne? No, io credo che le donne bevano sempre più vino, però che non ci siano vini maschili che vini femminili. Il vino è semplicemente vino e un vino rosso, corposo, può piacere sia a un uomo che a una donna, ma ad esempio piace molto di più rispetto a un vino bianco. Maria Gioia Rosellini dal 1995 dirige l'azienda K Orologio di Baone, sempre sui Colli Euganei, ed è diventata agricoltrice per passione. È difficile essere vignaiolo donna e le donne sono più brave come degustatrici? Per me non rappresenta una difficoltà, ma mi ricordo che quando ero giovane avevo dei bambini piccoli, essere un imprenditore comunque e dividersi tra la famiglia e l'attività e l'azienda, il vino che magari ha dei tempi e dei periodi in cui non lascia spazio ad altro, insomma non è stato semplice. E poi va bene, io ho cominciato, ero giovane, magari qualcuno mi prendeva un po' sotto gamba, oppure quando arrivava in cantina mi chiedeva ma dov'è tuo papà, cioè come per dire. Oggi non è più così? No, oggi no, ho un'età diversa, insomma è anche forse una sicurezza diversa. E poi ho dei figli grandi, insomma ho più tempo e conosco di più il mio lavoro. Io quando ho cominciato non venivo da questo settore, per cui era tutto nuovo. Le donne normalmente hanno un olfatto più sensibile, sì, sentono cose che gli uomini non sentono, però secondo me per quanto riguarda il palato forse gli uomini detengono ancora il primato, almeno tra i degustatori esperti che conosco io. Da Baone a Torreglia. Quota 101 è la storia di una famiglia di Rovigo che si è innamorata dei Colli Euganei e da costruttori sono diventati imprenditori nel mondo del vino. L'azienda è diretta dalle sorelle Roberta e Silvia, che ci racconta anche il perché della scelta di conversione al biologico che stanno attuando e che non è stata dettata tanto da una scelta ambientalista ma dalla vita quotidiana sul campo. Esatto, siamo io e mia sorella Roberta, entrambe impegnate in prima linea a quota 101. Durante la prima vendemmia io ho scoperto che sarebbe nata la mia bambina e come ogni persona che diventa genitore ti preoccupi di quello che lascerai al tuo figlio e per noi e per me e poi per tutta la mia famiglia è stato subito una scelta importante, quella di permettere a Viola di vivere in un posto pulito e più sano possibile. A noi piace molto il fior d'arancio in versione secca, è un vino che piace molto anche alle donne, soprattutto alle giovani ragazze che si stanno avvicinando al mondo del vino, e vediamo che è molto apprezzato anche in questa versione. Azienda sempre più al femminile è anche Aireassi di Carbonara di Rovolon, diretta da Francesca Callegaro. Sì, è vero, è iniziata tanti anni fa con mio suocero che faceva il vino con grande passione, ha trasmesso la passione ai figli e adesso mi sono trovata io, sono la nuora, a portare avanti un po' per caso questa attività agricola. Ma è vero che c'è maggiore attenzione da parte delle donne al mondo del vino, secondo lei, e perché? Sì, secondo me è vero, forse perché alle donne piace fare le cose bene, sono meticolose, sono un po' cocciute, e sì che penso che queste porti bene, e anzi penso sia stato un po' di stimolo anche ai viticoltori uomini nei Colliugani per poter migliorare. Il vino è un prodotto pieno di profumi, dal sapori anche sempre nuovi che cambiano, e quindi anche questa scoperta che mette anche un po' chi lo degusta di fronte ad una sfida attrae non più solo l'uomo ma anche il mondo femminile. Certo, perché adesso nei Colliugani si sta puntando sulla qualità, e puntando sulla qualità il prodotto dà sensazioni, proprio si riscopre la vera natura dell'uva e del territorio e della terra da dove cresce. Di conseguenza tutti questi sapori, tutti questi profumi inebriano, affascinano, fanno scoprire un mondo nuovo, un mondo dove ci si ferma a riflettere finalmente e a pensare al prodotto che si sta bevendo. Facciamo ora una pausa, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Siamo in linea con il quadrifoglio, abbiamo avuto occasione di sentire alcune imprenditrici cosa ne pensano del vino e donna, però adesso facciamo un passaggio ulteriore perché non ci accontentiamo di un'imprenditrice donna nel mondo del vino, ma abbiamo con noi una enologa, una giovanissima enologa, quindi curioso come questa professione, veramente fino a ieri considerata maschile, oggi attragga non solo giovani ma anche giovani donne. Benvenuta Lisa Loreggian, della omonima azienda di Arqua Petrarca, appunto da poco tempo anche enologa. Perché enologa? Buongiorno a tutti intanto e grazie per l'intervista. E diciamo che per quanto mi riguarda non è stata appunto una decisione presa di punto in bianco, ma sono proprio cresciuta all'interno dell'azienda vitivinicola di famiglia ed è stato proprio un percorso spontaneo. Dopo il liceo ho iniziato a seguire appunto la facoltà di enologia, Università di Padova, che ha sede a Conegliano, ed è un mondo molto affascinante. E quando ho cominciato a dire, la facoltà era a numero chiuso, su 72 studenti eravamo solo in 5 ragazze. E diciamo che ho sempre visto comunque la donna come figura molto più professionista rispetto all'uomo e come esperienza che ho avuto. E io sono felicissima della scelta che ho fatto, perché è un mondo veramente da scoprire, da esplorare, e tra l'altro sono sempre di più le donne e i giovani che si avvicinano al mondo del vino, proprio perché è un mondo che permette di avere una cultura a 360 gradi, perché si va a studiare la storia, i territori, si conoscono molte persone, si è a contatto con le persone e si conoscono gusti completamente diversi da paese a paese, da cultura a cultura. Ecco, che cosa in particolare affascina una donna del mondo del vino? Cioè, il prodotto in sé o il mondo, appunto, come l'ha appena descritto? Io penso entrambe le cose, nel senso le sensazioni che rilascia il prodotto, dal profumo al gusto, ai sapori, sia il fatto di scoprire il territorio, quindi legato al viaggio, alla conoscenza, alla scoperta dei territori e delle storie che stanno al di là della bottiglia, perché è quello che affascina anche oltre al vino stesso, le storie del come viene prodotto il vino, chi lo produce e tutta la filiera dall'uva alla vendita, quindi è bello sapere cosa c'è al di là della bottiglia. Queste donne che fanno il vino, quindi enologhe, che cosa possono portare di diverso? Cioè, ci possiamo attendere per il futuro un vino fatto da delle donne diverso, che abbia qualche cosa di diverso, oppure no, è solo una questione magari di maggior precisione, non so, attenzione al prodotto? Diciamo che la donna porta sempre qualcosa di diverso, di particolare. È chiaro che non si va a fare chissà quale trasformazione, ma magari a proprio dare un tocco in più che è tipico del palato femminile o del modo di fare spesso comunque della donna, insomma, ecco. Quindi spesso nelle aziende che sono state tipicamente condotte da uomini, quando arriva la donna tende un po' a voltare pagina senza sradicare comunque il prodotto stesso e la tipicità dell'azienda, del territorio, anzi lo va a valorizzare maggiormente. Ecco, le colleghe che abbiamo sentito prima ci hanno detto che non esiste in realtà un vino per le donne, perché le donne ormai bevono il vino e hanno gli stessi, in qualche modo, anche gli stessi gusti dei maschi, oppure che magari cercano qualche cosa di un po' più profumato. Diciamo che lo confermo, però comunque la maggior parte delle donne va a scegliere soprattutto vini bianchi e aromatici. Un esempio che tra l'altro proprio del nostro territorio ne è il fior d'arancio, quindi spumante, dolce, aromatico, leggero, con la bollicina. E per quanto le donne comunque sappiano apprezzare, come gli uomini, anche rossi corposi, affinati in barrique, che hanno, sono lì da diversi anni, comunque alla fin fine la maggior parte preferiscono i vini bianchi aromatici, dalla mia personale esperienza, insomma, di contatto con il pubblico, ecco. Certo, ecco, l'ultima cosa, io mi figuravo l'enologo come questa persona che con il bicchiere in mano va di botte in botte ad assaggiare il vino. Faccio un po' fatica a pensarla una giovane ragazza che nella stessa cosa, immagino che non sia proprio così. Io lo faccio, nel senso, personalmente proprio passo di botte in botte ad assaggiare i vini, assolutamente sì. Anzi, è mio fratello che accompagna me, non sono io che accompagno lui, nel senso è lui che segue me. Perché spesso la donna, quando entra come figura in un'azienda, è lei che traina, insomma, ecco, chi ci lavora, e vedo che i risultati comunque sono, per ora sono soddisfacenti, E non vedo perché non debba essere una donna, ecco, a prendere in mano il bicchiere, a fare il giro delle botti. Anzi, si sa che come palato è molto più fine la donna rispetto all'uomo, nel senso che spesso la donna coglie più sfumature rispetto all'uomo, ecco. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Ringraziando tutte le imprenditrici che oggi hanno prestato la loro voce a questa trasmissione, vi do appuntamento alla prossima settimana con il Quadrifoglio. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.